La domanda di quest'oggi poteva essere inscatolata nel titolo Forse non tutti sanno che. Parlavamo della PFM e degli esordi della premiata Forneria Marconi a nome dei Quelli e soprattutto di un particolare ingaggio per quanto riguarda il cantante di questa formazione. Ci chiedevamo, era forse Dario Fo? Ahimè, no. Nobel, ma non cantante dei Quelli. Non era lui. E allora forse era l'ipotesi B, quella giusta. Teo Teocoli, il comico. Ma potrebbe anche... Ebbene sì! È la risposta giusta. Ai tempi, Nino Teocoli, soprannominato poi Teo, proveniente dalla formazione, senta qua i titoli, I Demoniaci. Inciderà il primo 45 giri della formazione, Via con il tempo, del 66. La canzone, tra l'altro segnaliamo, scritta da Mussida, però... non essendo ancora iscritto in SIAE, venne firmata Ricky Gianco e Gian Pieretti. E se ne scopre sempre qualcuna, pane colpo potrò, di scena, eh? E quindi allora, non era neanche Beppe Grillo. Non era neppure, no. Beppe Grillo, eh? Dunque il grande imitatore, sì, Teo Teocoli, esatto, che in questo momento è entrato nel mio corpo. Questo è Mike Buongiorno. Colpo di scena, non era neppure, esatto, Teo Teocoli, ma Mike Buongiorno. No, si tranquillizzi, maestro, si tranquillizzi. Celebration! Abbiamo celebrato, permettetemi il gioco di parole, anche la PFM nei nostri test attitudinali. 8 e 34 minuti primi, c'è l'Ariele qui negli studi di Rock FM con Spadino, Roberto Fricantoni. Ultima mezz'ora di diretta, una buona giornata anche ai fortunati ancora di più quest'oggi. Hanno il piacere di sintonizzarsi solo adesso, magari perché si sono svegliati, se l'ho detto. Buona giornata, maledetti. Qui è dura, ma ce la faremo. Ormai manca solo il rush finale, tutta in discesa qui. Stiamo raccogliendo i messaggi di quest'oggi al 335-100-7777. Un saluto a De Macontino. Guardate che avere la patente davvero rocker non conta nulla, sono in coda lo stesso anche oggi. Grazie per ieri, prego. Filo da Dozza, sto già impazzendo perché non ho la patente, quando è che venite a Bologna? Non posso continuare ancora per tanto a sentirmi un rocker solo a metà. Ma no, dai, non è così. Un saluto anche a William. Ciao, ho cercato notizie di Roberto Fricantoni su internet. Caspita, è più famoso di Garibaldi. Cosa stai dicendo? Che altro coda di paglia che non ti fidavi della celebrità di Fricantoni, no? Ciao ragazzi, voi siete pazzi. Non credevo che avreste fatto un lavoro così peculiare con le patenti. Orgoglioso della mia numero 122. Un grazie a voi e un saluto alla 123. Manolo, il serramentista mattutino. Hai capito, Spadino? Magari nascono degli amori, capito? Tra la 122 e la 123. Mike, puntavo alla 200. Sono malcelatamente orgoglioso della mia patente. Frick, la prossima volta ce la suonate quel capolavoro di Egiuditta. Stai attento a chiedere queste cose, Mike, che qua scatta subito, eh. Ti ricordo che l'ultima che abbiamo interpretato era Sottomarino Giallo, sì. E Spadino mi guarda come dire ce l'ho. No, oggi no, dai. Se vuoi la rimettiamo domani, oggi no, ti prego. Marco Zacca. Visto che da oggi circolano le patenti da vero rocker, vi informo che mi autoproclamo vero rocker spatentato e chi non gli sta bene gli strappo le corde della chitarra. Bravo, così mi piace. Ultimo saluto a Valentina, buongiorno, io mi sveglierei con la canzone di Star Wars per la serie Ce la puoi fare, che la forza sia con te. Grazie Vale! I'm a believer! I thought love was only true in fairy tales, and for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love, I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. That's I saw her face. Now I'm a believer. Not a train popped out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm a believer. I Monkees, pane burro rock and roll, puntata. No, ragazzi, domani è l'100, bisognerebbe inventarsi qualcosa. Siamo troppo stanchi per inventarci qualcosa. Io continuo a leggere i messaggi, la vera parte autorale di questo programma. Vi ho lasciato a dare patenti e a parlare di sbarbine e ora vi ritrovo in onda a sparare stupidate. Stamattina sono io che do due punti da veri rocker a voi. Saluti dal numero 177, colui che non ti ha chiesto la foto. Ah, ho capito chi sei. A questo proposito saluto Gibson69 che non ha ancora scritto questa mattina. E questo mi fa immaginare che ieri sera ha proseguito la serata bene. Un abbraccione ad Alba che scrive un messaggio fenomenale. Buongiorno, è nebbia o sono io? Non mi sa che sei tu. Massimo da Pescia, che vota per il risveglio delle 8 con il musical. Sai che hai ragione, Massimo. Anche Tommy, no? Sai che ormai sta settimana la prendiamo così, un po' free. Però dalla prossima ci ripensiamo a tornare sui musical. Mi sono perso le patenti, ma ho visto il Puma sabato sera al Muddy Water. Complimenti. Ciao Ariele, è lunedì, non ho la patente da vero rocker, ma non importa. Seguo Rock FM da 14 anni. Quando dovevo fare i numeri per prendere le frequenze, eravate una mini radio e sono felice di avervi visto diventare sempre più grandi e conosciuti. Complimenti a chi ha avuto il coraggio di buttarsi in questa avventura. Marco Garavelli in primis. Ciao dalla CRI. Ciao. Dimenticavo, ho un mal di testa atroce. Qual è il baretto dell'amico dell'otto? Che vado, mi prendo un caffè, magari tento anche la fortuna. Guardando la centrale a sinistra. Mannaggia, l'avrei presa con lode la patente. Che invidia, venite a Genova. Ma Fricca ha dormito sotto il portone? Sì, in realtà sì. Paolo da Genova, tornato dalle vacanze. Finalmente posso tornare ad ascoltarvi. Dunque, non si inizia mai con il dunque e già questo è rock. Questo è l'inizio di un SMS. Dato che, ed anche questo è rock, sono un rocchettaro da 40 anni, ne ho 51, mi spetta la patente ad honorem, espedita a casa, con tanto di maglietta. Forse esagero, comunque nome e cognome via. Comunque per meritarla ti dirò che Tina Turner si presentava in Tommy con le siringhe spiaccicate sui capelli e sul vestito. Mannaggia, quante ne sapete! That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, churn world, serve its own needs, dummy, serve your own needs, beat it up a knock, speak, grunt, no strength, the ladder starts to clatter with fear, bite down, high fire and a fire representing seven games in the government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the fury. Team reporters battle Trump, tethered crop, look at that, no plane, fine, then, uh-oh, overflow, population common, do what it'll do, save yourself, world, serve its own needs, listen to your heartbeat, dummy with the rapture and the reverend and the right, right, you patriotic, slam, fight, right, like feeling, pretty sight, it's the end of the world as we know it, it's the end of the world. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, watch your heel crush, uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear, turn them in, turn sign. Leonid, Brezhnev, Lenny, Bush, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, symbiotic, patriotic, slam, boom. Gigi, per farsi perdonare, vi offro un bel caffè. Viva il caffè! Viva. È sicuro che è quello buono? Io lo mandi giù e Dio ti tira su. grande musica dalle frequenze di Rock FM in quello che si chiama Pane, Burro e Rock and Roll. La vostra trasmissione di riferimento, lo dice, chi lo dice? Lei lo dica pure forte e chiaro. Lo dico io perché ci credo, Roberto Fricantoni vi consiglia di ascoltare Pane, Burro e Rock and Roll. Il nostro occhio sul mondo, non chiudiamoci a ricco nel nostro piccolo mondo antico, apriamoci, scopriamo cosa succede nel mondo. Certo, non chiudiamoci neppure a Ventaglio, non sì, chiudiamoci sì. A Fisarmonica, a Riccio si vabbè, dice vabbè, io volevo trovare una modifica. Vogliamo in Australia, ma vogliamo una modifica al proverbio. Modificando il proverbio il risultato cambia in Australia. Ma vogliamo in Australia, come al solito, le notizie che tutti gli altri hanno scartato e che noi di Pane, Burro e Rock and Roll raccattiamo. Gestiva sexy club, bimbo di 6 anni indagato. Perfetto. L'inchiesta avviata dal Dipartimento dell'Istruzione, perché era appunto un bambino, uno studente, ha coinvolto un istituto scolastico elementare dello stato di Victoria, nel sud-est dell'Australia. Secondo quanto emerso, il baby boss era solito mostrare i gioielli di famiglia ai compagni, ma solo in cambio di soldi. Beh, certo che stupisce, insomma, così giovane, già così precoce. Il piccolo, messo con le spalle al muro, non ha potuto far altro che confermare quanto contestatogli, ma con aria innocente ha precisato di non gestire alcun tipo di sexy club scolastico. Nonostante la vicenda sia considerata estremamente grave anche dalle autorità australiane, i genitori dei bimbi coinvolti non potranno rivalersi nei confronti del giovane boss, perché le leggi non prevedono condanne per minori di 10 anni e lui ne ha 6. Carina però la segnalazione di gestire un sexy club a 6 anni. Lei non ha mai fatto vedere i suoi gioielli di famiglia dietro compenso? Guardi, non mi è mai capitato e credo che l'imbarazzo me l'avrebbe impedito. C'è da dire che il ragazzino è molto rock. C'è da dire che io, poi da mostrare, forse non avrei avuto granché. Thank you. Domanda chi sei, credo di riuscire ancora a rispondere. L'Ariele, come sto messo invece è meglio se non rispondo. So che ce l'abbiamo fatta. Questa è la fine. Che orgoglio, Spadino. Siamo restati vivi fino alle 9. E allora, ultimi saluti veloci. Attenzione, il governo che da sempre ha paura dei veri rocker sta piazzando degli autovelox per veri rocker, ma non ci fermeranno mai. È la fine. Ross Rockera, Super Pig, Pollo, Isa, Laura, Ago, Tino, numero 135. C'era anche via mail, il numero 158. È finita, ragazzi. Un saluto anche ad Eros. Pane, burro e rock and roll. Tracu, tracu, tracu, tra. La tua colazione rock. Ritornerà domani. Pane, burro e rock and roll. Precisi, puntuali, dalle 7 alle 9. Siamo qui per voi. Cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, no, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Ogni giorno dalle 7 alle 9, pane, burro, rock and roll, dalle 9 alle 12, Marco Garavelli. Esatto. Buona giornata, Marco. Ciao. Ce l'abbiamo fatta. Bravo, complimenti. È stato veramente uno dei weekend più lunghi della mia vita. Immagino. Spero finisca il prima possibile. Il weekend è già finito, Ariele. È già finito? È già finito. Lo so che la febbre stai vaneggiando, però è già finito, stai tranquillo. Devo ancora pagare... Sai cosa devo fare oggi, assolutamente? Devo Le pagare bollette? La bolletta del smaltimento rifiuti. Se no, a Gallarate lì sono cattivissime, vengono a prendermi al volo. E scade oggi, quindi adesso corro in corri, corri, corri. Corro magari e non è la parola esatta. Prendila con calma, sino alle 14 le poste sono aperte. Ti lascio, ragazzi, trattali come meglio credi. Okay. Noi ci si risente domani dalle 7 alle 9. A domattina, ciao!